Kappa, sono qua a casa, mi sto attaccando questo campo di alimentatore. Alimentatore. Alimentatore? Alimentatore di un computer. 4, 5, prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova, ola, prova. Aspetta che faccio un passaggio così, ora, e adesso, troppo per amplificata, va bene, ma si può aumentare oppure va bene così? Oh, non c'è niente da fare, sempre, questi sono sempre i migliori qua, non sono a posto qua così come vorrei, ma il tempo è poco e la papera non galleggia. Comunque, le antenne ce le ho ancora con le orecchie basse, andiamo avanti così. Ero curioso di vedere come va, così, non col sistema remoto che mi hai detto già che andava bene, ma così utilizzando invece il microfono suo, le sue cose, tutto l'ambaradam. Va bene, e questa è l'unica limitazione che ha, è quella della potenza, che fra l'altro non mi sono mai dedicato a vedere se si può variare, perché è strano questo fatto che gli altri abbiano, ne diano 100 e invece lui è bloccato a 25 solo in AM. Guarda, adesso non mi ricordo qual è, lo devi aprire, io mi sono fatto l'850 a 25 watt in AM, c'è un VR8, mi pare VR12, comunque te lo confermerò non adesso, e praticamente senza toccare niente apri appena appena quello lì e ti dà 100 watt tutto in positivo con l'850. Come l'850 purtroppo i digitali sono così, non c'è da toccare niente, io l'ho leggermente sotto la tutela di chi ne ha già fatto altri, che sai chi è l'uomo del monte, e mi dà 100 watt di portata, addirittura 120-130 modulati in AM, in banda laterale arriva a 150 tranquillamente senza nessun problema, però prima era fermo a 25 watt, come se operavi 25 watt e non avevi picchi negativi. Adesso la portante muta a 100 pieni, 120, 130 modulati, addirittura quello di fabbricare da anche 150. E difatti, caspita, bisognerebbe metterlo in condizioni normali, perché qua non va più di 25, non va normalmente così. Questo fra l'altro è quello nuovo, l'ultimo che avevo comprato. È praticamente così, è immacolato, niente, no, c'è solamente, vabbè, gli avevano aperto la banda, tutte le varie cosettine, ma niente di dal punto di vista di aumentare o toccare il trimmer o cose varie. Va bene, mi fa piacere che però funziona correttamente. E cosa ti stavo dicendo? Uno di questi giorni che sei in giro eccetera e sono lì in ufficio, ci fai un salto e ti faccio e ti sono curioso di farti vedere, perché fra l'altro non c'era neanche padrino tuo, non ce l'ha questo apparato che ho detto, non ce l'ha, gli manca, ne ha tanti quadrupli, quintupli, sestupli, di tutto e di più, ne avrà dei 500 sicuramente, ha detto guarda non c'è, sei il numero uno, stazioni con così tanti CB non ce ne sono nessun'altra parte della Sardegna, della penisola, forse si fa fatica a livelli europei o mondiali a superarsi, però questo gli manca. Sì, ne mancano parecchi, quelli che c'ho io, lui quello che c'ho io sono soli allo standard base, vecchio modello che inizialmente sembrava un VHF, invece è un bel apparato da base, 10 watt con le bande laterali eccetera, standard, quindi figurati tu, e poi sicuramente manca anche l'FR50, quello da somma che anche c'ho io, che ho comprato la banana di Mario Mao, anche quella è una bella storia, insomma, che molto bella. Vabbè, bene, manca anche a lui, non è l'unico, però ne ha tanti e sono un po' in disuso, io ho fatto una cosa fatta molto molto più bellina, eccetera eccetera, ha riempito troppo e alla fin fine anche lui ha ragione, ce lo rimetto come li uso, come fa e come non fa, invece io ho fatto le cose selezionate, sì, di quelli in base, belli, consistenti, e qualche veicolare di bella stazza tipo l'Uranus, che è un bel apparato della Galaxy, semicontinuo, senza bande, da 26 a 32, molto bello esteticamente, molto bello anche come funzionalità. Va bene, Marco, se ne tiro lo secondo tempo, ti lascio perché questa è una strage di campionato, il Milan sta pareggiando, abbiamo dato rigore 1-1, il Cagliari sta parlando 1-0, però è sempre lì che tira e molla e pertanto sto seguendo, se mai ci sentiamo dopo, altrimenti a frappè. Ehi, a wifi, vai a seguire. Io adesso scendo e ceno, mi approfitto per andare a mangiare qualcosa. No, qua lascia acceso, dopo ritorno un po', mi sono nuovamente rivendicato qui allo Shack e voglio fare qualche collegamento, lo so fare un po' qua, dai. Ok, ciao ciao, dopo. Va bene, dai, quando capita ci sentiamo, non mi ha detto niente di questa radio e quindi no, non ti dico niente, dai, questo è un bravo plush della Sciaretta e l'apparato è un rovesce. Ok, ci sentiamo dopo se coincide, dai. Cappa, munizione, è sempre la tua, bellissima, amplificata, forte, chiara, cioè, niente, non c'è niente da aggiungere. No, veramente sono curioso di sapere che fine ha fatto quello che avevo io, che non mi ricordo a chi poi l'avevo dato, forse l'avevo dato proprio alla Sierra Whisky Whisky, e sarà negli scaffali, boh. No, io l'ho dato a te, tu l'hai dato a me, per questo io non sto comprando niente da Sassa, io non sto facendo nessuna operazione, questo sto operando con uno di Cagliari che c'ha diverse radio, poi se ti interessa ti faccio sapere, c'ho anche il Simba, il Simba SSB50, Walter non mi ha voluto dare, gli avevo chiesto anche da poco e l'ho trovato a Cagliari da questo mio amico, capito? Funziona molto bene anche quella, bellissima radio, bella forte, bella ciucciante, dai. Ci sentiamo dopo, Marco, lasciami seguire questi eventi del secondo tempo, perché ti ripeto, è molto importante che la Juve vinca e Milan perda. Dai, va bene, fai a dopo, scendo. Ciao Sciusciu, anche a te, che tanto so che sei con le orecchie tese e stai ascoltando anche qua. Vado a cenare, magari ci risentiamo dopo, do un colpo di campanello sull'altra frequenza. Ciao, ah, ecco lo Spambiero. Ehi, ecco lo Spambiero, è in agguato, mi sto guardando la partita, sentiamo dopo tu. Io me la sto ascoltando, chi è l'altro amico? Ma bombolo, guarda che ti chiudo il regolatore di gas, sono Marco Scorpio, ciao. Ciao Marco. Come stai? Bene, bene, Marco, ogni tanto ti vedo. E già ti sento che stai bene, si sente che è la voce che ha già scaluppato alla grande. Qualcuno ha segnato, bubu. Ciao a tu, ci sentiamo. Il mio cazzo, il mio quello zingaro bastardo. Ma ti stanno affondando, non ci posso credere. No, qua vicino c'è la Juve che mira, ma mira del referente, altrimenti non cambia niente, capito? Stupidia, segna cazzo. Ok, va. Ok, va. Ok, Marco, dai, ci risentiamo. Mi vado a mangiare qualcosa, poi ritorno comunque. Così vediamo anche com'è andata questa partita. A me caccia non me ne frega niente, ma sono curioso, che qua c'è Padrino e Figliuccio che sono in competizione. A dopo. Ciao Marco, a dopo, ciao. Dai, vediamo che succede. è andata male, dai, pazienza. Quelle partite si comprano in Italia. Bravo, bravo, quanto che fai da bravo. Quando siamo qui su casa di qualche momento, fai da bravo, chi stava in combatta, no? Chi si è vinta, se l'ha vinta, in campo neutro. Sì sportivo, non di cazzati. Io sono sportivo, ma quando vedo le scorrettezze non mi piacciono. Vabbè dai, avete vinto voi. Basta così per quest'anno. Anche al prossimo anno sarà sempre uguale, sempre Juve, E poi vedremo, poi vedremo. Poi vedremo se è sempre così. Quando è che riprendono i campionati? Ci sentiamo domani, dai. Buonanotte, con 144, con QRT. ci sentiamo domani se coincide. Ciao ciao. Avanti Giuseppe. Cappa, ciao Antonio, buonasera. Ciao Giuseppe, da dove ne stai venendo? Dal circolo, io sono uscito adesso dal circolo, sono qua Piazza Castello, dai, quella zona lì. No, no, ero da solo. Mi senti Giuseppe? Cappa, che ti sento Antonio, ciao! Cappa, se ti sentivo io la via Levante, da via Torino, sei altre parti, senti io, e tu non mi sentivi. Insomma, ero in mezzo ai palazzi, hai capito? Ero in zona in mezzo ai palazzi e mi faceva male, faceva male a accoppiarsi, capito tu? Aperto gli antenne di gomma ci avesse, cappa. Oh, io ti sentivo benissimo, non avevo nessun problema, la verità, Faccio una finestra segreta, rientro subito. Sto meglio, capito? Ma cappa. Leoncino. Cino. Via. Cappa, come mi ascolti? Leoncino. Attenzione Fabrizio. A tu. No. Attenzione Antonio Bombolo. Chi sarà? Sono qua, sono. Cappa, ti stavo dicendo, non ci hai sentito Fabrizio? No, ho sentito io, no. Che sto cercando di contattare a Cosova. Non ci dove sei? Sì. Sono qua in aeromento. Ma come ti sta arrivando? Bene, 9:15 Radio 5. Ma io ti arrivo lì in aeromento. Cappa, mi arrivi, sì, tu. Mi sta arrivando 9:10 qua, Più scendo, più mi arrivi più forte, capito? Cambio. Io non ho mai problemi di copiarti, ti sento sempre. Brava, 9:10 mi sembra poco e ti arrivi 9:15, no. Sono 9:15. Ora. Papa, mi sembra strano che non mi senti. C'è qualcuno che sta modulando? No, negativo. Siamo in silenzio radio. Al circolo, capito? Fatto di Roger. stessa pagata, quindi stai collaborando con tuo fratello. No, ero solo per vedere la partita subito, dunque no. No, io rientro martedì a lavorare. Pappa Roger, e tu quanto dove l'hai vista la partita? Qua a casa. Poi qua non me ne parlare, ho le palle girate qua. Sì, vabbè, intanto al Cagliari non è, cambiava molto. Non è, non è quello il problema. E vabbè, dai, dai. Vabbè, dai, al prossimo campionato. E non ti preoccupare, tu, il Cagliari è salvo, La salvezza l'ha fatta lo stesso, So che è salvo, però no, non hai compreso, no, caso che... Mi avrei previsto che lo vincesse il Milan. E me l'ha andata un po' male. Non so che è andata male. Cazzo, con una squadra che l'hanno pigliata anche altre squadre, blu, Inter, Cantina e Limoni, più gente. Allora, il Milan non è che la pensa con noi, partita, no. La pensa con quando ha giocato con la Fiorentina, che ha vinto la Fiorentina. 2-0, dunque la pensavi la partita, no? Con noi, noi ce lo vogliamo salutare, capito? Papà, ma è un pochettino strano questo Milan, è andato male, non riesco proprio a capire, non riesco. Cioè, la Fiorentina è una squadretta che non è che siamo, cioè è una squadra che a livelli di un Cagliari, a livelli così, perché è dall'altra parte. Uno non riesce a capire perché non... strano, è molto strano. Ma da fare il tuo parcheggiando? Non problema, Antonio.